È una stagione che comincia a ottobre e si sviluppa per gli 8-9 mesi canonici, andando a chiudere nella primavera del 19. È una stagione che inaugura gli inizi di ottobre con il Don Giovanni di Mozart, secondo la rilettura personalissima dell'orchestra di Piazza Vittorio, e credo che già da questo spettacolo si capiscano un po' le linee guida di questa stagione. L'orchestra di Piazza Vittorio, che è un ritorno atteso nella nostra città, è un'orchestra multietnica che quindi mette insieme paesaggi culturali estremamente distanti e che si rifà a un grande classico della nostra tradizione teatrale europea. C'è quindi una dimensione di pianeta e una dimensione di Europa, un lontano e un presente che sono un po' i poli dentro i quali si muove questa stagione. Non a caso il suo motto è Guardati intorno, perché l'idea è per l'appunto quella di esplorare gli spazi della contemporaneità. Come sono questi spazi? Sono spazi estremamente multiformi e frastagliati, con una grande dilatazione planetaria. Penso a spettacoli come When the Rain Stops Falling, che oscilla tra il passato e il presente, tra l'Australia e Londra. Penso a un grande affresco storico come Afghanistan Enduring Freedom, la seconda parte di quel lavoro sull'Afghanistan di cui avevamo già presentato la prima parte, che quest'anno riproporremo in forma di maratona. Ma penso anche a uno spettacolo come Settimo Cielo di Carol Churchill, un'autrice importantissima per la scena europea contemporanea, poco rappresentata in Italia, con questo testo che sta tra l'Africa vittoriana e l'Europa del nostro presente. In fondo un piccolo emblema, anche nella sua natura anomala, di questa stagione è rappresentato dallo spettacolo di Capodanno, Transit, che non per niente è ambientato in un aeroporto e che vede al centro una compagnia canadese, i Flip Fabric, che si sono rivelati al Festival di Edimburgo dell'estate passata proprio per la forza della loro proposta, la loro capacità di coinvolgimento. Tanto attenzione per la nuova drammaturgia, perché c'è bisogno, credo, di scrittura che aderisca al presente, che sappia leggere il presente, esplorata in varie possibilità, in vari livelli generazionali, da una grande maestra come Lucia Calamaro, che presenta questa sera, che presenta Senato all'imbrunire con Silvio Orlando, un interprete amatissimo dal grande pubblico, ma poi giovani come Davide Carnevali, come Lorenzo Pisano, come Marta Cuscunà, e possibilità di scritture anche molto diverse, da una scrittura fisica radicata nel corpo come quella di Roberto Latini, a una scrittura poetica come quella della Valdoca o della Compagnia della Fortezza, una scrittura molto legata all'esplorazione della realtà e del territorio come quella di un giovanissimo gruppo che è Per 452, che ha avuto un grande successo lo scorso anno col Giardino dei Ciliegi, che quest'anno ci propone un nuovo lavoro, Perdere le cose. Attenzione anche per l'Italia, per fare i conti col nostro essere qui ed ora. I ritratti dell'Italia passano attraverso scorci diversi, si va dal Quasi niente di De Florian Tagliarini, una coppia di attori, di interpreti molto amati e tra l'altro tra i più quotati oggi in Europa. In questo caso partono per la loro nuova creazione da Deserto Rosso di Antonioni, quindi un ritratto di un'Italia che sta scoprendo l'industrializzazione e la modernizzazione, ma poi c'è la Roma di Pasolini, di Ragazzi di vita, che rivive nella trasposizione teatrale del romanzo fatta da Massimo Popolizio con un attore molto amato dal grande pubblico come Lino Guanciale, al ritratto di Napoli di De Filippo con questi fantasmi per la regia di Marco Tullio Giordana, e poi delle incursioni nella marginalità, penso a Pueblo di Ascanio Celestini o penso a spettacoli come L'Abisso di Davide Nia, che ci parla della tragedia delle morti in mare, o al Binno Blues di Vincenzo Pirrotta, ispirato al Codice Provenzano, quindi ci parla di un'altra Italia, l'Italia tristemente nota per i fatti di mafia. Quindi un paniere di proposte molto ricco, che sta per l'appunto sotto quell'egida del guardati intorno, che ci fa riflettere sullo spazio, ma ci fa riflettere anche sul fatto che quando uno occupa uno spazio prende una posizione, e c'è tanto bisogno oggi di prendere posizione. Un testimone che si passa con la stagione precedente, collegate fra di loro, Ma da un punto di vista concettuale c'è questa volontà di continuare l'esplorazione dei nostri tempi, spostandosi per l'appunto dall'interrogazione sul futuro, che era al centro della stagione scorsa, all'interrogazione su che tipo di spazio, che tipo di mondo stiamo abitando. Poi ci sono delle continuità date dai protagonisti, penso al caso dei Kepler 452 che stavo menzionando prima, o penso a un caso come quello di Lino Guanciale, interprete della classe operaia lo scorso anno e di Ragazzi di vita quest'anno. Ci sono quindi delle corrispondenze che sono fatte di volti che ritornano e di storie che confluiscono in questo teatro. Non abbiamo ancora un concetto di compagnia fissa e di artista associato come accade nel resto dell'Europa, ma stiamo lavorando in questa direzione. Ci sono figure che ritornano, penso a Enzo Vetrani e Stefano Randisi, penso a Le Belle Bandiere, penso a tutto questo mondo di artisti che spero che sempre più si sentano di casa nei nostri teatri.